Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Questa è una legge di civiltà, di diritti, e quindi non dobbiamo farci dominare dalla paura. Non ci può venire nessun male dal riconoscere i diritti a questi ragazzi che sono italiani di fatto, già, che parlano il nostro dialetto, che giocano con i nostri figli e che vanno riconosciuti per quello che sono, persone con i loro diritti. Questo ha detto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il ministro dei trasporti Delrio, dopo che c'è stato questo stop, di cui in parte avevamo già parlato ieri sera, dello Ius Soli, del disegno di legge che dovrebbe riguardare la cittadinanza ad alcune condizioni ai bambini nati in Italia da genitori immigrati. Quindi c'è una spaccatura in realtà già anche all'interno del PD. Risulta la Lega, in molti non volevano questa legge, anche Forza Italia, credeva molto la sinistra del PD e poi MDP, però evidentemente una dichiarazione di questo tipo del ministro Delrio denota che anche all'interno del Partito Democratico, insomma, ci sono posizioni contrastanti. Ne parleremo perché ci occuperemo di politica anche questa sera e dovremo purtroppo occuparci dell'ennesimo femminicidio. L'avrete sentito, della ragazzina di 16 anni vicino Lecce che era scomparsa dal 3 settembre scorso. Il fidanzato di 17 anni ha confessato, dopo un lungo interrogatorio, di averla uccisa a colpi di pietra. Ce ne occuperemo anche per chiederci, ma noi ogni volta che sentiamo queste notizie sempre più frequenti di stupri, di tentati stupri, di violenze sulle donne, di femminicidi, che cosa pensiamo? Cioè, ormai siamo assuefatti alla routine oppure abbiamo voglia di fare qualcosa e dare il nostro contributo per cambiare qualcosa? Per i vostri messaggi 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte. Poi ci saranno gli aggiornamenti sulla partita di Champions. Insomma, direi di partire prima di tutto con la sintesi della giornata. Ancora un femminicidio, confessa il fidanzato 17enne, è stato lui a uccidere a colpi di pietra la ragazza di 16 anni scomparsa vicino Lecce il 3 settembre. La madre di Noemi ne aveva denunciato gli atteggiamenti violenti. Europa, Juncker rilancia l'Unione sui migranti, l'Italia ci ha salvato, dice, e il presidente Mattarella sottolinea, non lasciamo le chiavi dell'Unione Europea ai trafficanti. Birmania, l'appello dell'ONU, fermate le violenze contro la minoranza musulmana, situazione umanitaria catastrofica, basta attività militari. Spagna, in Catalogna indagati 700 sindaci schierati a favore del referendum per l'indipendenza. Un banchetto di nozze finito male, nell'Astigiano un morto dopo un'intossicazione alimentare, sono 18 le persone in ospedale. Calcio in Champions, stasera tocca al Napoli. Partiamo quindi purtroppo da questo ennesimo femminicidio. Il fidanzato di 17 anni di Noemi Durini ha confessato di aver ucciso la ragazza di 16 anni di Specchia, vicino Lecce, che era scomparsa lo scorso 3 settembre, e ha indicato dove cercarne il cadavere, trovato poi dai carabinieri nella campagna adiacente alla strada provinciale per Santa Maria di Leuca. Il corpo della povera Noemi era parzialmente occultato sotto alcuni massi, è stata uccisa probabilmente con uno o più colpi di pietra. Il padre del ragazzo, padre 41enne, è indagato a sua volta in concorso con il figlio per omicidio volontario. Secondo i primi accertamenti medico-legali, Noemi è stata uccisa proprio il giorno della sua scomparsa. Come vi dicevo, ne torneremo a parlare tra poco. Per invece occuparci di Europa, oggi a Strasburgo il presidente della Commissione europea Juncker ha tenuto il suo discorso sullo Stato dell'Unione, i temi principali, economia e migranti. È un'Europa col vento in poppa, quella che vede il presidente della Commissione europea Juncker nel discorso sullo Stato dell'Unione tenutosi all'Europarlamento di Strasburgo. The wind is back in Europe's sails. L'intervento di Juncker ha toccato un ventaglio molto ampio di temi, a partire da quello economico. Siamo al quinto anno di crescita, ha detto il presidente della Commissione, rivendicando come ora sia vicina a quella degli Stati Uniti. Sempre in tema di economia, Juncker ha appoggiato l'idea di un fondo monetario europeo da sviluppare sulle fondamenta dell'attuale ISM e soprattutto di un ministro europeo dell'economia e delle finanze per promuovere le riforme strutturali negli Stati membri. Spazio anche a un altro tema d'attualità, le dispute commerciali, in primis con la Cina. L'Europa ha le porte aperte al commercio, ma ci deve essere reciprocità. La conclusione va nel senso tracciato da Macron. Dobbiamo proteggere i nostri interessi. Ampio spazio alla questione migranti. Non si può parlare di migrazione senza pagare un tributo all'Italia per la sua generosità. Nel Mediterraneo l'Italia ha salvato l'onore dell'Europa e ha escluso la futura adesione della Turchia all'Unione, almeno finché mancherà il rispetto dello Stato di diritto. Tra le novità, la proposta di un presidente unico dell'Unione Europea, che raggruppi le funzioni incarnate attualmente dallo stesso Juncker e da Tusk, e tra gli altri temi trattati anche le divisioni est-ovest, il Dieselgate, la Brexit e il terrorismo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo anche di Birmania, perché il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto passi immediati per far cessare le violenze in Myanmar, appunto il nome attuale della Birmania, dove la minoranza islamica dei Rohingya nello stato di Rakhine è vittima della repressione e di persecuzioni da parte delle autorità. Al termine di una riunione oggi a porte chiuse, la prima dall'inizio dell'esodo della minoranza Rohingya iniziato ad agosto, i 15 membri del Consiglio di Sicurezza ONU hanno espresso loro profonda preoccupazione di fronte alla situazione attuale nell'ex Birmania. Ne parleremo perché leader ormai da anni, e lo era anche quando era prigioniera del regime dittatoriale, Aung San Suu Kyi, ricordate, Aung San Suu Kyi, premio Nobel nel 91, ora è il suo partito che guida lo Stato della Birmania, e quindi ci si chiede, lei è stata icona dei diritti civili, adesso che cosa fa? Schiaccia i diritti di questa minoranza? Ce ne occuperemo tra poco con un analista esperto di Asia che ha proprio scritto un libro sulla premio Nobel. Restiamo all'estero con la Spagna, con la Catalogna ribelle. È stato minacciato l'arresto dei sindaci favorevoli al referendum di ottobre, che Madrid sta cercando in ogni modo di fermare. È sempre più tesa la situazione tra il governo di Madrid e la Catalogna. Oggi la Procura dello Stato spagnolo ha dichiarato indagati circa 700 sindaci catalani su 948 che si sono schierati per il referendum di autodeterminazione del 1 ottobre. Per coloro che si rifiuteranno di presentarsi, il procuratore José Manuel Maza ha ordinato che siano arrestati. I possibili capi di imputazione sono disobbedienza, abuso di potere e presunta malversazione di denaro pubblico, per i quali sono previste pene di carcere fino a 8 anni. Ma i sindaci del partito catalano della sinistra secessionista CUP annunciano che non si piegheranno. Non possono arrestare tanti sindaci, ha dichiarato il deputato Carles Riera. Non ci sono abbastanza prigioni. Re Felipe intanto ha confermato pubblicamente di essere contrario al referendum. I diritti di tutti gli spagnoli saranno tutelati, ha detto, di fronte a coloro che si situano al di fuori della legalità costituzionale. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la politica è italiana fa discutere lo stop allo Ius Soli, l'avete sentito all'inizio, manovra a rischio dopo la presa di posizione di MDP che minaccia di sfilarsi proprio in seguito alla vicenda dello Ius Soli. Dopo lo stop non reggiamo il moccolo a Renzi e Alternativa Popolare, i nostri voti sul DEF, sulla legge di bilancio, non saranno scontati, minaccia Alfredo Dattore di MDP. Sempre sul fronte dello Ius Soli e il dietro fronte del Senato, Graziano Del Rio, l'avete sentito all'inizio di Effetto Notte, ha parlato di atto di paura grave. Intanto riparte l'iter della legge elettorale, l'approdo in aula alla Camera è previsto nell'ultima settimana di settembre, tra poco ritorniamo a parlarne. Ma a proposito della prossima legge di bilancio, attenti agli errori, e questo è il monito degli industriali italiani. I margini della prossima legge di bilancio non sono ampi e non possiamo consentirci errori. Significherebbe fare non uno ma tre passi indietro. È il monito che arriva dal presidente degli industriali Boccia, secondo il quale sulla crescita i segnali sono sì positivi ma la ripresa non è ancora strutturale. Occorrono dunque scelte selettive, individuando dove mettere le risorse e favorendo la crescita per contrastare disuguaglianze e povertà, dice Confindustria, secondo la quale la priorità sono i giovani. Serve un'operazione shock di 2 o 3 anni, dice Boccia, che li aiuti ad essere inclusi nel mondo del lavoro e che ne riduca il costo. Azzeramento del cuneo fiscale dei contributi per i neoassunti è la proposta più volte ribadita da Viale dell'Astronomia, mentre allo studio del governo nella prossima legge di bilancio c'è una misura più morbida che punta a un dimezzamento triennale per gli under 30, così come ha confermato oggi Poletti. Il ministro del lavoro ha anche spiegato che in tema di pensioni si sta valutando di stabilizzare l'anticipo pensionistico cosiddetto social. Quanto alla nota di aggiornamento al DEF, l'approvazione è prevista per il 21 settembre da parte del Consiglio dei ministri, che si prepara a rivedere al rialzo le stime del PIL. Alessandra Schepisi, Radio 24, e Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla cronaca. Ad Asti, una festa di matrimonio è finita addirittura con una vittima, intossicazione alimentare per decine di invitati. Il banchetto di nozze domenica scorsa era andato come da copione. Portate, brindisi, taglio della torta, foto e confetti. Poi però, tra la sera e la notte, quasi tutti circa 100 invitati si sono sentiti male. Vomito, disturbi gastrointestinali hanno costretto una trentina di loro a ricorrere all'ospedale. Alcuni, in gravi condizioni, sono stati trattenuti in terapia intensiva. Uno di loro, un uomo di 70 anni, non ce l'ha fatta. È morto la scorsa notte all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino per le complicanze dell'intossicazione alimentare subita. Il banchetto nuziale si è tenuto alla locanda dell'antica Sere a Maretto, in provincia di Asti, nel cuore del Monferrato, un classico locale in mezzo al verde, location perfetta per matrimoni ed eventi. Le indagini sono in corso, ma sembra che all'origine della grave intossicazione collettiva ci sia una portata di pesce avariato. I carabinieri del NAS di Alessandria hanno sequestrato dalle cucine del ristorante diversi campioni. Controlli incrociati con i campioni forniti dai medici dovrebbero consentire di individuare i colpevoli della tragedia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in serata è arrivata la notizia che nel Lazio sono 17 i casi accertati dal servizio regionale, di sorveglianza malattie infettive. Ad oggi sono 17 i casi di chikungunya. Di questi 6 nella capitale, lo ha comunicato la regione. La sindaca Raggi ha dato oggi il via libera all'avvio della disinfestazione contro la zanzara che trasmette questa malattia virale che scatena febbre acuta. E notizia di pochi istanti fa, stop quindi per questo alle donazioni nell'ASL Roma 2 dopo questi casi di chikungunya. L'ha deciso il Centro Nazionale Sangue e Istituto Superiore di Sanità. La sospensione della donazione riguarda solo l'ASL 2 del comune di Roma e il comune di Anzio, oggetto di un focolaio confermato nei giorni scorsi. E oggi è stato anche il giorno dell'addio alle vittime del nubifragio a Livorno. Per volontà delle rispettive famiglie si sono svolti in forma strettamente privata in varie chiese di Livorno i funerali di 7 delle 8 vittime dell'alluvione. Nel Duomo della città l'ultimo saluto alla famiglia Ramacciotti, rimasta prigioniera della furia delle acque nel proprio appartamento. Nella sua omelia per questa famiglia rapita alla vita, il vescovo Simone Giusti ha lanciato un appello alle istituzioni. Meglio una polemica sui giornali in più per una falsa allerta che nuovamente giorni come questi, ha detto, lanciando poi un attacco alla burocrazia, che se non cede il passo a pronti interventi di riassetto idrogeologico del territorio potrebbe presto portare a rivedere un'alba piangente come quella del 10 settembre, ha aggiunto. Le indagini sul disastro intanto vanno avanti per accertare eventuali responsabilità in seguito al violento nubifragio, considerato un evento dalla portata eccezionale, come ha spiegato a Effetto Giorno Roberto Pandolfi, ingegnere del consorzio di bonifica di quell'area. Ci sono degli ordini di grandezza di progettazione che prevedono che le opere idrauliche vengano progettate con tempi di ritorno pari a 200 anni. In questo caso stiamo parlando di un evento una volta ogni 500 anni. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere lo sport, l'Agenzia Antidoping Mondiale, WADA, ha deciso di assolvere 95 dei primi 96 casi di atleti russi esaminati nell'indagine sul sistematico programma statale russo di doping, lo rivela il New York Times citando un rapporto interno all'agenzia. Le prove disponibili sono insufficienti, scrive Oliver Nigli, direttore generale dell'agenzia. Una decisione questa destinata a suscitare polemiche, con l'interrogativo se sia prevalsa l'efficacia del sistema russo nel distruggere le prove del doping o l'approccio soft, un po' troppo soft, degli investigatori. Non so cosa penserà il nostro Giovanni Capuano, che però deve aggiornarci sul Napoli in Champions. Giovanni? Ciao Roberta, penso che di soft c'è stato pochissimo nell'approccio del sistema mondiale, perché la Russia è stata fuori dai giochi olimpici del 2016 ed è stata fuori da tante competizioni internazionali, e quindi questa è una pagina che probabilmente verrà chiusa con le assoluzioni, ma che sicuramente lascia delle macchie e delle ombre su tutta un'era di sport russo. Per quanto riguarda il calcio invece, mezz'ora che sta per scoccare a Kharkiv, non ci sono belle notizie per il Napoli, che è sotto per 1-0 contro lo Shakhtar, ma sta soprattutto giocando una pessima partita. In questa prima mezz'ora gli ucraini sono in vantaggio assolutamente, meritatamente. Il gol è arrivato al quarto d'ora e lo ha firmato Tyson, che è stato bravo dopo uno scambio stretto con un compagno ad arrivare al limite dell'area di rigore e poi con un sinistro in controbalzo sul primo palo a battere Reina. Lo stesso Tyson 5 minuti più tardi si è presentato solo davanti al portiere spagnolo. Reina è stato bravo a rimanere in piedi fino all'ultimo ed è riuscito a ribattere il suo rasoterra. Napoli che si è visto pochissimo, con un tiro di Milik sull'esterno della rete dopo 5 minuti e poi negli ultimi minuti con un colpo di testa di Albiol e un altro tentativo di Milik, ma poca cosa. Diciamo che soprattutto rispetto al Napoli che siamo abituati a vedere in campionato c'è poco ritmo, c'è poco palleggio e c'è poco dominio del campo, esattamente il contrario di quello che solitamente Sarri chiede ai suoi. Avete sentito il nome di Milik? Gioca lui al posto di Mertens in attacco nel 4-3-3. ai lati ci sono Insigne e Callejon. Siamo nel 31esimo minuto, 1-0 però per lo Shakhtar. Nell'altra partita del girone il Manchester City sta distruggendo il Feyenoord fuori casa 3-0 con 3 gol nei primi 25 minuti. Grazie Giovanni Capuano, poi capiamo invece cosa succederà nei prossimi minuti. Nel frattempo adesso aggiorniamo chi sta viaggiando e poi cominciamo ad approfondire il primo tema con gli ospiti tra poco. 349-238-6666, il numero per i vostri WhatsApp o SMS, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio. Parleremo tra pochissimo di, tanto per cambiare, di violenza sulle donne, del nuovo femminicidio. Cosa ti preparo? La tavola. Prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Le notizie principali ve le ho raccontate in questa sintesi della giornata come sempre. Roberta Giordano con voi, sempre insieme dalle 21 alle 22. Se non avete acceso puntualmente, io lo sapete che poi ve le riassumo le notizie più importanti. E poi tra poco cominciamo ad affrontare il primo tema sul quale vedo diversi vostri messaggi, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Io mi chiedevo all'inizio, insomma, quali reazioni avete quando sentite notizie di questo tipo, che ormai sono sempre più frequenti, sulla violenza contro le donne. Le altre notizie, appunto, quella che ci riportava purtroppo a questo tema è la ragazzina di 16 anni uccisa vicino Lecce. Ha confessato il fidanzato di 17 anni, era scomparsa lei da 10 giorni, è stata uccisa a colpi di pietra. Poi invece la Consob su Vivendi, la Consob organo di controllo della borsa su Vivendi, dice al controllo di team, la società annuncia il ricorso sulla delibera. Poi Juncker, presidente della Commissione Europea, che oggi nel discorso sull'Unione Europea ha rilanciato l'Unione, ha detto sui migranti l'Italia ci ha salvato. Insomma, poi vedremo quanto alle parole seguano i fatti, la solidarietà è quello che l'Italia chiede da tempo. Poi il ministro dei trasporti Delrio contro lo stop al disegno di legge sullo Ius Soli, dice è un fatto molto grave, ci siamo fatti fermare dalla paura. Oggi a Livorno, giorno di lutto, ci sono stati i funerali di 7 delle 8 vittime del nubifragio. E poi a Roma scontri tra Casa Pound e militanti di sinistra. La vicenda degli stupri di Firenze, anche il secondo carabiniere oggi ha ammesso il rapporto con una delle ragazze americane, nega però la violenza, e intanto una turista denuncia un tentato stupro sulle scale del Campidoglio a Roma. Per quanto riguarda lo scandalo del doping russo, la WADA, l'organismo internazionale per il controllo sul doping, dice ci sono prove insufficienti, quindi ha assolto 95 su 96 atleti russi. E quindi, tornando insomma al tema che vi ho annunciato, è incredibile, terribile che anche in un paese come il nostro si debbano affrontare quotidianamente, si trovi di fronte quotidianamente a casi di stupro da parte di uomini di varia provenienza, sia per quanto riguarda l'origine, diciamo, del paese, dell'etnia, eccetera, ma anche di ruoli, di ambiti, i tentati stupri, violenze di vario genere e poi una scia senza fine di femminicidi, come sapete. L'ultimo, quello appunto di una ragazzina di 16 anni che più o meno come quasi tutte le sue coetanee sognava l'amore vero, come testimoniano i suoi post su Facebook, fatto di sentimenti profondi, di tenerezza, anche di passione, di condivisione, di rispetto reciproco. Invece è finita ammazzata e buttata in un pozzo dal fidanzato di 17 anni, uccisa a colpi di pietra. Quindi praticamente un banale, ordinario caso di femminicidio, nel senso proprio, lo dico volutamente, perché oramai quando scompare una ragazza, una donna, la polizia più o meno sa dove andare, forze dell'ordine, andare a parare, no? Si fanno le indagini sul fidanzato, ex fidanzato, marito, ex marito, diciamo che si coglie quasi sempre nel segno. In questo caso lei si chiamava Noemi Durini, era scomparsa il 3 settembre scorso a Specchia, vicino Lecce, in Puglia. L'ultima sua immagine è stata catturata da una telecamera di sorveglianza e risale alle 5 del mattino di quel giorno del 3 settembre. Era su una Fiat 500 e alla guida di questa Fiat, guarda un po', c'era il suo fidanzato, il quale dopo un lungo interrogatorio ha confessato, ha indicato dove era il cadavere della ragazzina. E saluto intanto la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. Per aggiungere orrore all'orrore, se necessario, il padre di 41 anni del presunto omicida è indagato a sua volta, no, per concorso in omicidio, Raffaella. Sì, nell'atto che è firmato dal giudice per il sequestro in realtà ci sono anche le contestazioni di sequestro di persone e di occultamento di cadavere, cioè secondo l'ipotesi della procura il padre del ragazzo potrebbe aver aiutato il giovane, appunto adesso bisogna capire a che livello diciamo di coinvolgimento in questo delitto, se anche proprio nella realizzazione dell'omicidio o soltanto nell'occultamento del corpo. Quello che soprattutto fa rabbia di questa storia, appunto, di Noemi, di questo ennesimo femminicidio, ma soprattutto del barbaro delitto di una ragazzina di 16 anni, è di come, diciamo, questa violenza in realtà fosse già emersa subito. Le preoccupazioni per questo rapporto erano già forti anche alla stessa ragazza, anche alla stessa Noemi, ma ancor di più alla famiglia, alla madre che aveva sporto denuncia proprio per quei modi violenti del fidanzato 17enne, quindi un minorenne anche lui. Pare che la stessa Noemi fosse andata con i genitori in caserma dopo aver subito delle violenze, si sperava che fosse la magistratura in qualche modo ad allontanare questo ragazzo da Noemi, ma in realtà, nonostante fossero stati aperti due procedimenti, da una parte uno penale per le violenze, dall'altro uno civile per andare a verificare il contesto familiare nel quale questo ragazzo minorenne a sua volta viveva, un contesto a quanto pare che era proprio l'elemento che rappresentava una delle principali preoccupazioni per la mamma di Noemi, in realtà nulla di concreto era stato fatto, i tempi erano assai stretti e nulla aveva impedito appunto a questo ragazzo di avvicinarsi ancora. Quindi una volta non hanno preso misure cautelari, insomma, nei suoi confronti, non i magistrati. Immediate, diciamo. Quello che sappiamo è che c'è una denuncia, anche la giustizia ha i suoi tempi, evidentemente non c'erano quegli elementi, poi bisogna capirlo perché ancora tutto sembra sempre che non ci siano gli elementi. Raffaella, tra l'altro lui, adesso piccolo particolare, con le telecamere è stato ripreso alla guida di questa 500, tra l'altro minorenne. No, quindi l'ennesima infrazione, diciamo, 17enne, diciamo, forse potrebbe aver avuto già il foglio rosa per guidare, ma comunque diciamo che di fronte al contesto di quello che gli viene contestato, certo, questo è nulla, ma per dire probabilmente uno che era abituato a fare di testa sua, pare che quando ha saputo di essere indagato, non so se ha spaccato i vetri di una macchina, no? Esatto, ed era proprio questo in realtà che preoccupava la famiglia di Noemi, cioè il fatto che fosse un po' noto nel paese, un piccolo e delizioso borgo del Salento, come un poco di buono, ed era questo che aveva preoccupato la famiglia, oltre a questi modi violenti. Tant'è vero che da subito, al momento in cui era stata denunciata la scomparsa di Noemi, i sospetti erano caduti su di lui e alla fine, dopo ripetuti interrogatori, ha confessato. E ancora una volta, diciamo, ad aggiungere un ulteriore elemento di gravità a questa storia è anche il modo in cui Noemi è stata uccisa. È stata uccisa lapidata praticamente, cioè colpita ripetutamente dalle pietre fino a che una non l'ha ammazzata. Un modo che evoca anche contesti e anche jihadisti, da sharia, da integralismo islamico, esatto, certo. E anche espressione anche di un certo tipo, anche non so, cioè di una brutalità che non ha veramente limiti, non che cambiasse qualcosa se fosse stata ammazzata in un altro modo, però anche l'uso, diciamo, di queste pietre la dice lunga anche della ferocia che è stata utilizzata. Esatto. Di sicuro ci sono degli aspetti da un punto di vista investigativo ancora da chiarire fino in fondo, prima di tutto quella del ruolo, del coinvolgimento del padre e del ragazzo, e dall'altra parte che tipo di provvedimenti erano stati presi e con che tipo di gravità era stata valutata davanti alle denunce della mamma di Noemi rispetto alle violenze che già in qualche modo si erano già manifestate. purtroppo ancora una volta queste denunce non hanno evitato un epilogo drammatico. Già, grazie Raffaella Calandra, grazie molte. Ciao Roberta. Ciao Raffaella. Ciao. E di questo vorrei parlare con la professoressa Anna Boldri, criminologa, psicologa, docente di psicologia sociale all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, da sempre attiva sui temi della violenza contro le donne. Anna Boldri, buonasera. Intanto, buonasera. Anna, vorrei leggere alcuni dei tanti messaggi che stanno arrivando, sia al 349-238-6666 che sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio, Franco dice: da uomo mi vergogno di questi femminicidi, bisogna educare i bimbi fin da piccoli, in particolare a scuola, in famiglia, rispetto dell'uguaglianza, solo così si recupera su questo problema. Luca dice: vabbè, qualcuno invoca la pena di morte su questi casi. Mario dice: è un senso profondo di disagio e di vergogna che provo, lo dico da uomo. È bello che certi uomini anche, no, perché si chiede sempre, sì, è un problema che riguarda le donne perché le donne ne sono vittime, ma probabilmente sono gli uomini, anzi sicuramente, che devono riflettere su questo. Chiara scrive: dobbiamo deciderci a non proteggere sempre ossessivamente i nostri pargoli alla minima frustrazione, un brutto voto, una sgridata, eccetera, altrimenti tiriamo su una generazione di maschi, per appunto, invertebrati, imbelli, incapaci di affrontare un no. Per Irene la consapevolezza delle donne dei propri diritti è arrivata di recente e questo ha fatto in modo che gli uomini siano fragili e incapaci, insomma, di gestire questa situazione così diversa di indipendenza ed autonomia femminile. Francesco scrive: non è un caso come gli altri, perché il fidanzato era già arcinoto quale individuo violento e problematico, tanto che la madre di Noemi lo aveva perfino denunciato, come appunto stavamo dicendo. Alessandro dice: la società che piano piano si sta sgretolando. Maurizio scrive: penso che dobbiamo cambiare il modo di educare i ragazzi, soprattutto nelle famiglie. Magari il problema è che sono troppo viziati e non riescono a accettare un no. Questo in molti lo scrivono. Giovanna dice: penso che abbiamo perso un poco di umanità, credo che noi genitori dovremmo essere più presenti nell'educazione sentimentale dei nostri figli. E così molti altri messaggi interessanti, Anna. Quindi intanto gli ascoltatori e le ascoltatrici si interrogano e dicono la loro, no? Nel senso che quindi non può essere una routine alla quale ormai siamo assuefatti. Si danno continuamente queste notizie, si dice, si pensa tra sé e sé, magari per un momento, accidenti, questa cosa, e poi è come se entrasse nella nostra subconscienza un po' come qualcosa di fisiologico. Che cosa bisogna fare quindi, Anna Boldri? Sì, no, il problema, buonasera a te innanzitutto, è che ci sentiamo anche troppo spesso, quando ci sentiamo per viene a dire le stesse cose, ma di fronte in realtà una diversità di dinamiche che ci porta appunto a comprendere perché nella diversità di tanti fatti, ora adesso stiamo parlando dell'omicidio, ma qualunque forma di violenza di genere ha una stessa matrice, no? Questa semplicità apparente di alcune persone che mettono, di alcuni uomini che mettono in atto queste violenze di fronte a un no, di fronte a un loro bisogno, una loro modalità di prevaricazione. Quindi quello che veramente adesso non possiamo più sopportarlo, cioè, questo mi fa piacere quando anche gli uomini si indignano e domandano, no, che cosa c'è dietro. Ma perché questa è un po' la chiave di volta: se sono gli uomini che si interrogano e sono gli uomini che cambiano e fanno cambiare gli altri uomini, no? Se no il problema resta sempre lo stesso. Sì, questo è vero, però sembra qui ancora ricondurlo, cioè, di fronte a un uomo che è un uomo, un ragazzo che è incapace, non è che è una cosa successa dalla mattina alla sera, non è che uno era nato in una determinata cultura, il giorno dopo si ritrova tutte le donne, no, a fare le barricate, per cui voglio dire, anche un processo che in realtà, essendo molto più radicato e strutturato nella molto cultura, lento, e lo è, certo, ancora questo modalità di guardare la donna come un oggetto sostanzialmente, allora il problema è che quando concretamente un ragazzo, un uomo, si trova invece a relazionarsi con una donna, una ragazza che vuole, pretende, richiede una sua indipendenza, questa diversità in maniera anche strumentale non l'accetta. E il problema non è tanto solo, principalmente, di chi la agisce la violenza, ma di quella facilitazione sociale e culturale, qui addirittura sembra del padre, che condona questa violenza o la minimizza, e questo si parte da vicino di casa che non fa niente o che si domanda chissà lei che cosa ha fatto. Anna, a questo proposito, scusa, No, no, perché ti leggo questo messaggio di Piero da Castellaneta, da Castellana Grotte. Allora, per dire, a fronte di alcuni uomini di cui leggevo i messaggi che dicono mi vergogno da uomo e esprimono il loro dispiacere e il loro dolore, dice questo ascoltatore, Piero, volete farmi capire se è normale che una ragazza alle 5:30 di mattina sta girando da sola? Finché persiste questa mentalità, che speranze abbiamo? Esatto, come anche il domandarsi, no, ora scusate se faccio questo passaggio, sono due reati diversi, due drammi diversi, vittime, famiglie diverse, della violenza, no, presunta, per carità, usiamo questo termine, dei due carabinieri a Firenze, dove consenso, non consenso, bevuto, non bevuto. Cioè qui bisogna rispostare totalmente l'ottica dalla vittima, togliamola, basta domandarci la vittima che ora erano, che ora non erano, come si è comportata, non si è comportata, come si è comportata, cosa gli ha detto, cosa mi ha detto. Qui c'è da capire chi l'agisce la violenza, perché quella ragazzina poteva essere mia figlia, poteva essere la sorella di chiunque, ma cominciamo a partire da questa veramente considerazione. Non è quel ragazzo, quella donna, in quanto una ragazza di genere femminile, una donna di genere femminile, che crea il problema a molti maschi, dove l'eliminazione è la modalità più immediata, più ridimentale, più meschina, che no, uno mette in atto per eliminare qualcosa di cui non regge il confronto. Guardate che questo è una modalità suprema per sottolineare ancora una volta l'inadeguatezza di alcune persone di genere maschile, perché se di fronte a una difficoltà l'unico strumento che ha nella tua cassetta degli attrezzi è la violenza, voglio dire, qui a voi invocare l'educazione, qui bisogna che uno capisca che la vita è fatica, che bisogna chiedere aiuto se da solo non ce la fai e che la strada non è sempre in discesa e quando trovi gli ostacoli devi superare senza rimandare agli altri la colpa della tua responsabilità. Allora, gli uomini tutti, anche le donne per carità, perché ora sentiremo i messaggi di quelli che dicono sono le donne che educano i bambini, i maschi, perché aspettiamocelo, no? Ovviamente questo live motive. Sì, allora, perché anche gli uomini, i bambini, i ragazzi non si assumono intanto partendo da se stessi, adesso tutti i nostri ascoltatori di genere maschile cominciassero a capire, a comprendere loro nel loro quotidiano cosa fanno per affermare la loro identità, che è nobile, che è giusta per gli uomini e per le donne, in una maniera rispettosa dell'altro, della differenza. In questo caso vuole una differenza di genere, un domani può essere un'altra forma di differenza, di cultura, di colore, di lingua, di abilità, di disabilità. Ecco, tutto ciò che è differente, dove è differente da ciò che viene ritenuto dalla società come supremo, è genere maschile in una società che ancora è patriarcale per molti aspetti, è ciò che viene ritenuto prioritario e preordinato e supremo, tutto ciò che non si conforma a quella norma sociale diventa un minus e allora no. È qui che non è una questione di accettare che noi siamo uguali o differenti, le donne sono differenti nelle loro caratteristiche, nel loro genere e quant'altro, è rispetto alla differenza di genere, qui non si parla di uguaglianza, gli uomini sono uguali alle donne. Uguali alle donne nei loro diritti. Allora qui bisogna però quindi non spostare il discorso sulle vittime, che cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, loro sono troppo intraprendenti, sono poco intraprendenti, basta questo discorso, mettiamo da parte, io non voglio più sentir parlare o nessuna più descrizione di chi è, chi non è la vittima, se non nel rispetto di dare dignità a lei, alla sua famiglia, alla sua persona, e quindi nobilitarla per riconoscerne il sacrificio che lei ha pagato, dove però siamo tutti quanti che dobbiamo assumercene le responsabilità. Grazie Anna Boldri, grazie come sempre. Grazie, buona continuazione. Grazie a voi e speriamo che veramente le cose cambino, però veramente dipende da ognuno di noi nel quotidiano, da oggi, da stasera, da chi ci sta accanto, guardiamo negli occhi, comprendiamo i sentimenti degli altri, analizziamo le nostre emozioni, diamogli una parola, diamogli un significato, non vergogniamoci delle nostre debolezze e affrontiamo e chiediamo anche aiuto a chi può anche fornirlo anche da un punto di vista professionale, perché anche chiedere aiuto a uno psicologo non vuol dire essere malati, ma significa riconoscere che le proprie debolezze può essere occasione di crescita, di cambiamento, e ne beneficeranno tutti, in primi chi agisce la violenza. In primi. Grazie ancora Anna Boldri, grazie. Adesso ci dobbiamo lasciare, ancora vari vostri messaggi, continuate pure sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349 238 6666, ci sentiamo a momenti. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre, a Genova. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Abbiamo parlato ampiamente dell'ennesimo femminicidio di questa ragazzina di 16 anni uccisa a colpi di pietra dal fidanzato di 17 anni vicino Lecce, poi nascosta sotto un ammasso di pietre, probabilmente con il concorso del padre che adesso è indagato. E sono molti i vostri messaggi, devo dire, sono orgogliosa del pubblico, degli ascoltatrici e ascoltatori che hanno scritto al 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Tonino da Civitavecchia dice: la povera ragazza di 16 anni uccisa dal fidanzato, figli della stessa età, e sinceramente esprimere quello che si prova diventa difficile. Ci sono sicuramente, dice, delle responsabilità della famiglia, delle istituzioni, della società, proiettata ancora su pilastri maschilisti e di possesso. Poi Lidia scrive: sono le donne, le madri che devono insegnare alle figlie, di solito molti dicono sono le madri che devono insegnare ai figli maschi a essere rispettosi, a essere sensibili, eccetera, che è anche vero, però entrambi i genitori. Lidia dice invece: sono le madri che devono insegnare alle figlie che la loro dignità non deve essere calpestata in nessun modo, nemmeno con le parole. E poi dice un altro ascoltatore, anzi è Francesca, che dice: a Piero da Castellaneta, che si chiedeva che ci faceva una ragazza alle 5.30 per strada, se erano le 4 del pomeriggio la ragazza aveva più diritto di vivere, insomma, e molti altri messaggi. Adesso però cambiamo tema, parliamo di politica italiana, tra pochissimo con Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Se non avete acceso puntualmente, vi ricordo velocemente le notizie più importanti. Appunto, ancora un femminicidio, confessa il fidanzato di 17 anni, è stato lui a uccidere a colpi di pietra la ragazza di 16 anni scomparsa vicino Lecce il 3 settembre scorso. La madre di Noemi ne aveva già denunciato gli atteggiamenti violenti. Europa, Juncker rilancia l'Unione Europea sui migranti, dice: l'Italia ci ha salvato. Birmania, l'appello dell'ONU: fermate le violenze contro la minoranza musulmana. In Spagna, la Catalogna, in Catalogna indagati 700 sindaci schierati a favore del referendum per l'indipendenza. E poi un banchetto di nozze finito male nell'Astigiano, un morto dopo un'intossicazione alimentare, sono 18 le persone in ospedale. Per quanto riguarda la Champions League, c'è il Napoli in campo contro lo Shakhtar. Napoli per il momento perde per 1-0. Concentriamoci adesso sulla politica italiana. Ieri parlavamo dell'intesa raggiunta, ma non in modo definitivo, tra Movimento Democratico e Progressista, cioè il movimento dei bersaniani fuoriusciti dal PD e il campo progressista di Pisapia. Adesso, questo, in vista delle elezioni politiche di primavera, bisogna vedere se poi riescono a mantenere l'accordo. E poi abbiamo parlato ieri anche dell'intoppo che riguarda il Movimento 5 Stelle in Sicilia, perché il Tribunale di Palermo ha dato lo stop per il momento a sospeso le regionarie, cioè le selezioni online dei candidati che hanno incoronato, da parte degli attivisti del Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri, perché c'è stato il ricorso di un altro che doveva essere candidato, Mauro Giulivi, che dice: sono stato escluso dalla selezione perché non ho firmato il codice etico del Movimento 5 Stelle. Oggi però a far discutere, e saluto Barbara Fiammeri. Cara Barbara, buonasera. Buonasera a tutti. È l'abbandono, diciamo così, per mancanza di maggioranza del disegno di legge sullo Ius Soli. La Lega esulta, dice: grazie a noi questa cosa è stata archiviata. Però vogliamo sentire sia Bersani, che appunto fa parte di MDP, però poi anche un po' di scontento dentro lo stesso PD. Sentiamo Bersani. Chi dice non è il momento non ha capito nulla di quello che sta succedendo in Europa, in Italia. È esattamente il momento sia di fare lo Ius Soli, sia di regolarizzare quei 450.000 fantasmi che stanno curando i nostri malati, i nostri anziani, facendo le badanti, che stanno già lavorando dai nostri artigiani e che non sono regolari. Un errore drammatico, perché noi stiamo dicendo a un bambino di 10 anni o 11 che ha fatto l'elementare, che ha i genitori inseriti qui, che lui non può essere italiano perché ci sono i barconi e perché ci sono gli stupri. Cosa deve pensare nei prossimi anni un ragazzino così? E questo ce lo si aspettava dalla sinistra fuoriuscita dal Partito Democratico, però oggi anche Del Rio, che è ministro del governo Gentiloni e prima anche del governo Renzi e quindi facente parte del Partito Democratico, sentiamo che cosa ha detto, come ha espresso insomma la sua contrarietà a questo stop sullo Ius Soli. È certamente un atto di paura, questo è grave perché abbiamo bisogno di non farci dominare dalla paura, ma siamo anche aperti alla speranza perché il capogruppo del Partito Democratico ha detto che si cerca di costruire le condizioni perché vi siano i voti in Parlamento. Questo è un tema molto serio in cui la politica misura la sua dignità, non c'entra destra e sinistra, la questione dell'immigrazione conosce delle destre molto responsabili come il Partito Popolare di Angela Merkel, che sa fare politiche dell'immigrazione nella programmazione e nel rispetto della dignità delle persone. Allora Barbara, quindi è un argomento destinato, per il momento mi sembra, ad essere archiviato, probabilmente ha fatto effettivamente paura sotto elezioni che potesse in qualche modo far perdere dei voti, però anche all'interno del PD c'è divisione evidentemente. Ma certamente, come dire, i sondaggi, compreso quello oggi pubblicato da un quotidiano, da Repubblica, in cui si dice che è aumentata la percezione, la paura per l'immigrazione, pesa, perché siamo a pochi mesi dalle elezioni politiche, ad ancora meno mesi dalle elezioni in Sicilia. Detto questo, è vero anche che questo assioma tra Ius Soli, che poi in realtà è uno Ius Culture, cioè perché lo Ius Soli è un'altra cosa, lo Ius Soli basta nascere in un paese perché per diventare cittadini. In questo caso invece si parlava, già uso l'imperfetto, si parla appunto del fatto che un ragazzo abbia fatto un percorso scolastico in Italia. Con certe condizioni. Quindi Barbara, sì. Tu stai andando in bicicletta per caso? No. Ah, ti sento un po' così, un po' strana il cellulare. Sì. Vediamo se riusciamo a trovare un modo per sentirti meglio. Sì, va bene. Chiara e tonante. Bene adesso? Sì, meglio. Va bene. No, stavo dicendo appunto che in questo caso è una cosa diversa, però la ragione politica, o meglio la ragione elettorale, sembra prevalere e quindi le perplessità manifestate da Del Rio, che sono perplessità poi di molti dentro il PD, però devono fare i conti con un sentimento popolare che spinge in direzione contraria. Ovviamente chi, come la Lega Nord, si è messa in prima fila per combattere questo provvedimento ha ragione di esultare, insomma, è una vittoria politica. Senti, invece, per quanto riguarda la legge elettorale, mi pare che riparta l'iter, no, per la gioia sempre di chi ci ascolta, ogni tanto lo ricordo, quasi mi giustifico quando ne parliamo, però la notizia è che la riforma della legge elettorale resta nel calendario dell'Aula di Montecitorio per fine mese, anche se prima ci vuole il via libera in Commissione Affari Costituzionali, però dovrebbe ricominciare la discussione a fine settembre, quindi? Allora, la mia valutazione è che siamo di fronte a una muina, come si dice nel napoletano, cioè far finta di fare cose ma in realtà si sta facendo assai poco, nel senso che poi c'è un rimpallarsi le responsabilità, hanno deciso di calendarizzare il provvedimento entro settembre, però con questa formula ove la commissione abbia completato l'esame, che è quando si vuole scaricarlo in realtà un provvedimento, quello che manca è l'accordo politico, che cioè, una volta che è naufragata la legge elettorale al primo voto segreto, ricordo, a giugno scorso, o le forze che di quell'accordo furono protagoniste, ovvero il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, Forza Italia e la Lega ed altri partiti, anche il Movimento di Bersani, si risiedono intorno al tavolo ma con la volontà di arrivare a un accordo, oppure questa mi sembra un po', ecco, una melina, cioè un giocare con le parole, però alla fine poi non c'è una nuova intesa. Mamma mia. I grillini continuano a dire che prima la legge sui vitalizi, il Partito Democratico è diviso al suo interno tra chi vuole fare un accordo per un premio di coalizione e così tornare tutti insieme e chi invece, come i renziani, puntano a rimanere autonomi. Forza Italia vuole l'accordo perché non vuole fare un listone insieme alla Lega, e anche la Lega non vuole fare un listone insieme a Forza Italia. Una saga senza fine, quindi, chiaro. Ogni tanto ne parliamo, giusto per dire questo, che non si finisce mai. Cara Barbara Fiammeri, quindi a presto anche su questo tema. Grazie, sì, Barbara. Intanto ci saranno altre puntate. Certo, naturalmente, come in Beautiful, come le telenovele che non finiscono mai, ci accompagnano tutta la vita. Adesso la viabilità. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Tante le notizie di cui ci siamo occupati questa sera, come sempre, tra poco vi ricordo quelle principali, intanto proseguono i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666, su questo ennesimo terribile femminicidio, con Roberto, per esempio, che scrive: le mamme dei maschi hanno un grave compito, iniziassero a farlo, però anche i padri dei maschi iniziassero a farlo questo compito di educarli anche alla tenerezza, alla sensibilità, alla comprensione, al rispetto reciproco. Adesso cambiamo tema, vi ricordo che appunto una notizia principale di oggi è che ha confessato il fidanzato 17enne di Noemi, di 16 anni, che era scomparsa vicino Lecce 10 giorni fa. Lui ha confessato di averla uccisa a colpi di pietra. E poi l'Europa, con Juncker che la rilancia oggi nel discorso sull'Unione, dice: sui migranti l'Italia ci ha salvato. La Birmania, di cui parleremo tra pochissimo, e poi questo banchetto finito male, banchetto di nozze vicino ad Asti, c'è stato addirittura un morto dopo un'intossicazione alimentare, sono 18 le persone in ospedale. Per quanto riguarda il calcio, vediamo a che punto è il Napoli contro in Ucraina, che sta giocando in Ucraina, vediamo, continua a perdere 1-0 per il momento. Ci occupiamo quindi di Birmania, attuale Myanmar, se ne è parlato molte volte nel passato, con riferimento alla figura di Aung San Suu Kyi, leader del partito birmano Lega Nazionale per la Democrazia, premio Nobel per la pace nel 1991, icona della democrazia a livello internazionale, era stata per anni confinata agli arresti domiciliari dal regime dittatoriale che c'era a Myanmar. Poi nel 2015, anche grazie alla pressione internazionale, ha vinto il suo partito e ha vinto le elezioni, segnando un periodo di svolta fondamentale nel paese. Sono cambiate molte cose da allora, però si ha notizia da diverso tempo della persecuzione, della discriminazione nei confronti della minoranza musulmana dei Rohingya, tanto che oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU si è riunito apposta su questo tema, ha lanciato un appello alla Birmania di smettere con queste, addirittura sembrano operazioni di pulizia etnica. Ne parliamo con Ugo Papi, che è giornalista, esperto di Asia, consulente della Commissione Esteri della Camera, autore di Aung San Suu Kyi, Lady Burma. Ugo Papi, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Che sta succedendo quindi in Birmania? È possibile che un personaggio simbolo come Aung San Suu Kyi si stia comportando al contrario rispetto a quello che era quello che ne ha fatto la fama, insomma, nel corso degli anni? Che cos'è questa repressione? Naturalmente io sono molto dispiaciuto, come tutti, nel senso che colpisce che dietro questa vicenda molto triste e di violenza, oppressione, addirittura di pulizia etnica, sì, se ne può parlare, vista le dimensioni, c'è un premio Nobel come Aung San Suu Kyi. Perché questo succede? Naturalmente noi tendiamo a fare delle figure dei premi Nobel per la pace una sorta di santini. Non sempre così, anche in passato, perché i premi Nobel ottengono quel premio perché in una fase della loro vita fanno delle battaglie esemplari. Questo è successo a Mandela, è successo a Desmond Tutu, è successo al Dalai Lama, a Perez Arafat, addirittura ad Obama. Non sempre poi, naturalmente, nel corso della loro vita, soprattutto quelli che svolgono un'attività politica in primo piano, fanno cose sempre condivisibili, ce lo possiamo dire. Obama è stato un presidente degli Stati Uniti che non è piaciuto a quella parte repubblicana che poi ha eletto Trump, per esempio, e sicuramente non erano d'accordo per dargli il premio Nobel. Peres era fatto, nonostante gli sia stato dato il premio Nobel, perché avevano ottenuto la pace, una pace, ahimè, che è durata il tempo dell'accordo, tra israeliani e palestinesi, poi hanno fatto prima e dopo di quell'accordo di pace tante cose non condivisibili. Ecco, diciamo così, Aung San Suu Kyi è diventata oggi segretario di Stato, una sorta di primo ministro, non può essere presidente perché la Costituzione ancora glielo impedisce, e oggi è una politica, non è più quel santino che ha lottato per la libertà per il suo popolo. Io dicevo anche alla fine del mio libro, non vedevo l'ora che Aung San Suu Kyi potesse finalmente cominciare a sbagliare come tutti i politici, segno di libertà del suo popolo e anche sua personale. Però questa è una cosa più grave, molto grave, perché questa minoranza, i Rohingya, sono lì da 200 anni, portati dagli inglesi quando tutto era impero, sia il Bangladesh, l'India, così come la Birmania. Ma ci sono insediamenti ancora più antichi, è una piccola minoranza etnica, piccola perché si tratta di 1,5 milioni di persone, non di decine di milioni come per altre minoranze, che vivono ai confini con il Bangladesh, di fede musulmana. E la cosa grave è che la Birmania da sempre ha un pregiudizio negativo contro questo. Ci si augura, Ugo Papi, purtroppo ci dobbiamo lasciare, che almeno questo appello del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e dell'ONU possa, diciamo, ristabilire un po' di equilibrio e richiamare Aung San Suu Kyi anche alle sue responsabilità, visto il modello, l'icona che ha rappresentato per anni. Ugo Papi, intanto grazie, buona continuazione, buona serata. Arrivederci. C'è Giovanni Capuano adesso che deve dirci del Napoli non cose buonissime, mi pare di capire, no Giovanni? No, assolutamente. Decimo minuto del secondo tempo, Napoli che è ancora sotto a Kharkiv 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk. È un Napoli che nei minuti finali del primo tempo è riuscito a creare qualche grattacapo. La squadra ucraina è andata due volte vicino al pareggio, un rischio di autoreti di Ordez, palla a fil di palo, ma soprattutto un destro a giro di Insigne che si è acceso soltanto in quell'occasione al 44esimo e con il portiere ucraino Pitov che è stato costretto a distendersi in volo a mettere la palla in calcio d'angolo. Però complessivamente è un Napoli che sta giocando una pessima partita, sotto tono, sotto ritmo. In questo secondo tempo in cui i partenopei stanno cercando di accelerare, si vede un po' più di movimento, ma continua a vedersi scarsa precisione. Manca ancora tanto, perché mancano 35 minuti più tutto il tempo di recupero, però fin qui i segnali della serata non sono straordinari per la squadra di Sarri, che ci ha abituato a ben altre prestazioni anche in Europa. Quindi 1-0 per lo Shakhtar, siamo nell'11esimo minuto del secondo tempo. Sull'altro campo del girone è sempre 3-0 per il Manchester City sul Feyenoord, partita virtualmente chiusa. Grazie Giovanni Capuano, grazie Giovanni, noi ci risentiamo brevemente alle 22.